Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, eccoci. Allora, 28 aprile, caro Alessandro, 28 aprile, Santa Valeria. Ah, finalmente una santa con un nome normale. Ormale, per così dire. È importante anche San Vitale qui a Milano, che è molto, molto, il suo culto per secoli è stato molto forte. E poi un po' di nomi, come solito, di santi un po' strambi. San Pietro Chanel, che non si occupava di moda. San Pietro Chanel. San Pietro Chanel, sì. Non mica me lo invento, come sempre. Panfilo, Primiano, Afrodisio, Ursicino, Prudenzio e soprattutto, carissima, i cattolici che si battono contro l'aborto, Gianna Beretta Melle, che è una signora italiana che morì nel 1962 preferendo la nascita della propria bambina alla salvezza della propria vita, e la santificarono subito, per così dire. Oggi, nel 1937, il regime inaugurava gli studios di Cinecittà. Nel 1961, a proposito di regimi, nasceva Laura Boldrini, e nel 1945 veniva fucilato Mussolini. Questi i giorni. Equivoci con chi ci ascolta la camera. Non, a proposito di regime, non sto associando Laura Boldrini. No, meglio chiarirlo. Il regime era abbastanza chiaro. Col presidente della Camera, è evidente che Radio 24 ha avuto qualche problema, perché dice che critichiamo troppo. Noi non critichiamo nulla. Anzi, buon compleanno, signora Laura presidente. Boldrini. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, caro Oscar, l'Austria ha deciso di fare da sé. Ma tu ci credi a questa cosa del perché a me ha colpito molto Paolo Gentiloni, che dice che in realtà secondo lui non si farà nessuna barriera, cioè quasi come se fosse tutto cinema, un po' quello dell'Austria. Io sono d'accordo che è tutto cinema, perché uno legge e dice è lunga 340 metri. Se permetti, infatti ci sono le stesse fonti austriache di polizia che vengono riportate, che un po' ridacchiano, insomma, non è che sia proprio questo vallo insuperabile. No, è un simbolo, come è dirti? Il simbolo, però se la mettono in autostrada al valico del Brennero, sì, è chiaro che sarà come sempre aggirabile. No, il paradosso secondo me che vale di più su questo argomento è che ne rientrano più dall'Austria in Italia che dall'Italia all'Austria. Quindi qualcuno, quando scoprirà e farà bene questi numeri, ci dirà che siamo noi che dobbiamo costruire il muro e non viceversa. Quindi facciamo la gara a chi lo costruisce più alto, questo muro. Ho il timore che sia tutto, no, per carità, non voglio dire tutto cinema, ma che sia una mossa proprio anche mediatica per dire: cara Europa, voi non fate niente e noi, tra l'altro. Si è scatenata una gara che secondo me durerà qualche annetto alle elezioni di tutti i paesi. È l'effetto Trump in America, è l'Austria, è l'Ungheria, è la Polonia, è la Francia. Ma vale dovunque, perché la sensazione è la fine di un tempo lungo, è la fine del tempo in cui la sicurezza comune viveva di una delega condivisa. Adesso tutti pensano che autarchia, nazionalismo, dazi, muri. E continuiamo, la storia è un ripetersi ciclico di errori. In ogni caso, diteci anche voi che ne pensate, se l'Austria fa dobbiamo fa fare bene. I muri pure noi? Dobbiamo fare i muri, dobbiamo ripristinare le frontiere, che lo so che è messa così tutti diranno, molti diranno ma sì, ma certo, certo, ma è ovvio. Peccato che poi, peccato che gli effetti sulle esportazioni, i flussi, i traffici di beni No, perché c'è questa immagine, se uno mette le frontiere si ferma l'immigrazione incontrollata, ma non è così. Sono le illusioni. Ferma le frontiere, fa frontiere, poi la piantata di lamentarvi dei dazi a Putin, perché quello significa aumentare i tempi di controllo per ogni camion che passa, significa che esportiamo di meno, tanto per essere chiaro. Quella è di sicuro la cosa che avviene, mentre poi gli immigrati trovano il modo di passare. Questo sì, profughi. Soprattutto se mettiamo una barriera di quanto? 340 metri. Ah, sì, 340 metri. Barriera... capisci? Insomma, vabbè... Comunque, io rispetto il fatto che poi la gente si senta insicura e invochi il pugno duro, però attenti, cari ascoltatori, il pugno duro viene recitato di fronte a degli effetti negativi certi per tutti, che poi gli effetti siano quelli dichiarati, risate per quello che mi riguarda. E vabbè, caro Oscar, parleremo anche di altro, perché poi avremo il candidato sindaco a Napoli per il Movimento 5 Stelle, Matteo Brambilla. È la prima volta che parla. Insomma, beh, sentiamo anche capire, perché poi Napoli è un bel epicentro di vicenda. Perché, a me ieri ha colpito molto questa intervista della senatrice Capacchione, la cronista anticamorra, abbiamo parlato anche ieri, ma insomma ho visto che Bassolino ha rilanciato oggi dicendo: Bassolino, caro Renzi, qui chi ti dice che hai attenzione solo per chi porta voti e non per chi solleva problemi è vera. Bassolino, nella sua intervista alla stampa, che mi è molto colpito stamattina, dice: beh, io ho girato, se chiunque qui gira pezzi interi della città da 70, 80, 100 mila abitanti, il PD non c'è più, non c'è il PD, non c'è il sindacato, c'è una società dal basso, noi non l'ascoltiamo più, caro Renzi, ed è tutta su Renzi. No, ma infatti, ma sulla campagna, insomma, qualcosa poi chiaramente diremo, perché sentiremo candidato anche Brambilla, esatto, cosa ha da dirci. Però appunto l'Austria, vogliamo, perché oggi tra l'altro si incontrano a Roma Alfano e l'omologo austriaco, il ministro dell'interno. Allora, il sottosegretario all'interno Domenico Manzione è con noi, buongiorno e ben ritrovato Manzione. Buongiorno a voi. Allora, noi un po' qui sommessamente, io, Oscar Giannino, sosteniamo che sia, non dico un po' cinema, magari lei non lo potrà dire così, ma quello che sta facendo l'Austria è un po' una mossa mediatica o ci dobbiamo credere veramente che sono serie a mettere delle barriere? No, ma non mi pare che abbiate esagerato, forse può essere colorita come definizione, però i dati che avete dato sono sicuramente corretti, nel senso che la barriera attraversa l'autostrada e la stazione ferroviaria, su un confine che è di 440 chilometri e si occupa di poche centinaia di metri. Quindi è assai probabile che serva poco per bloccare i flussi e serva molto per dare un certo tipo di immagine e soprattutto per rendere più problematico il flusso di quelli che attraversano l'autostrada e le ferrovie. Appunto. Quindi danni economici assai significativi, contenimento dei flussi assai vicino allo zero. Quindi lo fanno solo per dare un'immagine, cioè l'Europa non è unita e allora noi vi facciamo vedere che... Dunque, indiscutibilmente l'Austria ha avuto dei numeri importanti, perché l'anno passato ha avuto circa 1 milione di transitanti e 80.000 domande di asilo. È alle prese con un'elezione cui risultati conoscete meglio di me, quindi si cerca un po' di salvare il salvabile, diciamo così. E inoltre è rivolta all'Europa, perché effettivamente l'Europa si sta muovendo in ordine largamente sparso, un muretto qua, una rete di là, un po' di lacrimogeni sugli sfollati da un'altra parte e così via. Ma voi cosa dirà oggi Alfano? Perché si racconta sui giornali che Renzi vorrebbe addirittura delle sanzioni europee all'Austria a questo punto. Punterete a questo? Ma dunque, indiscutibilmente il modo con cui è stato organizzato il controllo, addirittura ora si paventa l'invio dell'esercito e qualcuno ha anche sostenuto un controllo sul territorio italiano, cosa che mi sembra estremamente improbabile, visto che almeno su questo conserveremo la sovranità nazionale, insomma, mi auguro. È evidente che insomma tutto si muove intorno a questi argomenti, ecco, quindi il contenuto del colloquio che ci sarà oggi pomeriggio tra il ministro dell'interno e l'omologo austriaco credo che sia quello di ricondurre alla ragionevolezza, diciamo così, l'iniziativa austriaca. Sicuramente dei controlli Schengen li autorizza, perché sono previsti e ci sono già 9 stati in Europa che li fanno. Iniziative ulteriori chiaramente si potrebbero addirittura fuori dal trattato, quindi mi sembrano del tutto impraticabili. Rischio sanzioni c'è. Insomma. Sì, il rischio sanzioni c'è. Caro Oscar, qui eppure l'Austria va avanti, ma saranno le elezioni di Hofer, le possibili elezioni di Hofer. Ripeto, c'è un calendario e speriamo, ripeto, che il 23 giugno i britannici... insomma facciano una certa scelta, anche se io devo dire la verità, forse britannico restare, non so, no, perché io dico solo che se si apre il processo Brexit, che dura 2 anni, inizia un ballo di elezioni successive in Europa, da quelle spagnole, poi c'erano quelle francesi, poi quelle tedesche, poi quelle italiane, con un paese grande che se n'è andato dall'Europa e tratta per 2 anni per uscirne, come puoi immaginare, secondo me l'effetto è una grandissima presa di populismi dovunque, in tutti questi grandi paesi dove si vota, e che Dio ce la mandi buona. Ecco, questa è la mia opinione. Naturalmente sarà felice chi pensa che l'Europa bisogna spaccarla, che l'euro bisogna affondarlo, per carità, uno può avere queste convinzioni. Distruggiamo tutto, poi scopriremo che siamo tornati di nuovo col cappello in mano, soli, più deboli, però il rischio c'è. Prego. Però io condivido molto l'osservazione di Oscar Giannino. Devo dire però che secondo me il mutamento genetico della componente Europa, dell'organizzazione Europa, è già cominciato, nel senso che oramai si vanno manifestando delle sensibilità talmente diverse tra gli stati aderenti al club, chiamiamolo così, ovviamente uso l'espressione tra virgolette, e la stessa permanenza all'interno dell'Europa dell'Inghilterra avverrà, nell'ipotesi favorevole che io auspico esattamente come voi, però avverrà a tante condizioni indiscutibilmente produrranno lentamente una modifica di tutta la struttura europea. E a quel punto tanti diranno: perché concedere tanti opting out alla Gran Bretagna e noi no, eccetera eccetera. Ma è un processo che inizia, non si sa dove finisce. Senta, sottosegretario Manzione, ma sono veri i dati che prima anche citava Oscar Giannino e che sono sul Corriere della Sera, cioè che sono più i passaggi dall'Austria all'Italia di migranti rispetto che dall'Italia all'Austria, quindi dovremmo mettere noi il muro nei confronti loro? Ma sì, perché è singolare, perché sostanzialmente il vincitore del primo turno delle elezioni, che rilascia oramai già dichiarazioni come se avesse vinto, ha già pure sfrattato il premier resistente socialista nel frattempo. Esatto. Insiste su una ferrea affermazione del Trattato di Dublino, ma se lo dovessimo applicare alla lettera, per l'appunto, noi dovremmo registrare intanto il suo fallimento, perché quelli che arrivano da noi attraverso lo stesso valico, provenienti dall'Austria, che poi sono afghani e pakistani per la più gran parte, sono tutte persone che hanno visto respinta la loro richiesta di asilo in altri paesi europei, quindi a voler essere rigorosi, diciamo così, il controllo dovremmo farlo nel senso opposto. Però una cosa che ha detto Hofer sul Trattato di Dublino, su questo secondo me ha ragione, cioè tutti sapevano cosa c'era scritto e quando l'hanno firmato è verissimo, questo è sacrosanto, però tenga conto che la prima elaborazione del Trattato di Dublino risale ai primi anni 90, quando cioè intanto non c'erano le condizioni di crisi che ci sono ora, e i flussi erano radicalmente diversi. Anzi, se vuole, il Trattato di Dublino è un'arma più utile esattamente per i movimenti, diciamo così, di tipo conservatore, che comunque non sono favorevoli all'immigrazione, perché di fronte a numeri piccoli ogni Stato può fare da sé, mostrare il muscolo, ma quando ci troviamo di fronte a numeri di questo genere è evidente che quel tipo di trattato non va più bene, anche perché produce tutta una serie di paradossi. Uno, l'abbiamo appena detto, che è quello dell'anda e ritorno sul Brennero a seconda del paese più conveniente per fare la domanda d'asilo. L'altro ovviamente è quello legato alle identificazioni, perché chi vuole andare in un paese piuttosto che un altro accetta molto malvolentieri di essere identificato e di rimanere nel paese di primo ingresso. Quindi sono tutti effetti paradossali che da un lato evidenziano come non è in grado il trattato più di far fronte alla gestione di numeri così elevati, e dall'altro invece produce effetti perversi addirittura contrari rispetto alla stessa ispirazione che ha consentito di sottoscrivere. Ovviamente ci chiamano anche gli ascoltatori, Oscar, ci chiama Walter da Trento, per esempio, mi segnalano, interessante. Walter, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Che dice? Pronto? Sì, dica Walter, buongiorno. No, volevo dirle questo, ho sentito all'inizio di trasmissione che parlavate praticamente del confine e di quello che stanno facendo in Austria. Le assicuro una cosa, io sono anche consigliere provinciale e regionale, per cui mi sono proprio in contatto con i consiglieri del Tirolo. Il problema sono due. Il primo, loro dicono, in Italia non vengono registrati, per cui noi dobbiamo cercare di fermare questo flusso, perché l'Italia non fa quello che deve fare. E la barriera che stanno costruendo, le assicuro che non è simbolica, perché lei o passa attraverso l'autostrada o la ferrovia o la strada statale, altrimenti attraverso il bosco non passa, perché è talmente impervia e pericolosa la zona che chiaramente non è possibile. E dopo le dico un'altra cosa, in Austria si può anche entrare probabilmente senza farsi vedere, ma le assicuro che la polizia austriaca non scherza molto. Le dico solo una cosa, se lei prende una multa in autostrada o la paga immediatamente, lei non si muove. Per dirle che le cose le fanno e funzionano rispetto all'Italia. Ma lei, visto che mi sembra di capire a questo punto è un politico, visto che è un consigliere, è d'accordo su questo muro? Cioè, ci vuol dire anche di che partito è? Ci vuol dire chi? Ma io sono per il Partito Autonomista Trentino Tirolese. Il problema grosso è che sicuramente dal punto di vista turistico e delle merci ci faranno dei danni, perché chiaramente verrà con il controllo, i tempi saranno sicuramente... È chiaro, è chiaro. Però il problema grosso è questo, l'Italia non fa quello che deve fare. Parliamoci chiaro, perché non so, è vero che l'Italia c'ha i confini, c'ha 8.000 chilometri di coste, spiagge. Di coste. Però il problema grosso è che in Italia non fa quello che vuol fare. So, Oscar Giannino qui sbuffa un po'. No, ma sbuffa un po'. Io capisco, il vostro punto di vista è unilateralmente filo-austriaco. Perché io sono del partito autonomista. Sì, lo so. E naturalmente dite, ci sono le interviste poi di alcuni che dicono: beh, purtroppo ci troviamo dalla parte sbagliata e così via. E se la gara è tra chi fa meno quello che è richiesto per l'esposizione, l'Italia per anni è stata lasciata sola di fronte al corridoio mediterraneo, e lei lo sa meglio di me, come tutti noi, no? Per anni siamo stati solo all'esplosione post Merkel dell'invito siriani e afghani, venite, sì. Allora è diventato improvvisamente, quando il flusso si è spostato dal Mediterraneo al centro Europa, allora è esploso tutto. Negli anni precedenti a noi ci hanno lasciato con la Guardia Costiera e la Marina a dire: vedetevela voi, questo è il punto vero. Allora, ma io che non dico per questo che l'Italia va difesa, perché l'Italia non ha un modello di integrazione, sono il primo a criticare, lascia ai comuni reperire le risorse dopo che escono dai CIE Cara. Quindi noi negli anni abbiamo qui sviluppato tantissime critiche. Però attenzione, perché proprio perché è avvenuto quello che dobbiamo ricordare tutti, beh, l'Italia è stata lasciata lì. E solo dopo che è esploso, infatti, il caso tedesco centroeuropeo, ecco che arriva. Ma alla luce di questo, per concludere, sottosegretario Manzione, ma alla luce di quello che sta succedendo, non è stata un po' improvvida quella uscita della Merkel di qualche mese fa, secondo lei? Cosa è stata? Ma no, guardi, io non credo che l'uscita della Merkel sia stato un pull factor, come pure l'accusano molti degli stati europei, così come non credo che sia utile giustificare i muri con riferimento a eventuali negligenze di altri stati. Il vero problema dell'Austria comincia nel momento in cui hanno fissato a 35.000 le quote dei richiedenti asilo e più di quelli non ne prendono. Sarebbe come dire che l'Italia mette in mare le navi e quando arriva il 35.000esimo persona che chiede asilo, tutti gli altri li respinge e li fa affogare in mezzo al mare. Non ha nessun senso. O stiamo nella comunità internazionale e si riconosce il diritto d'asilo, oppure non si riconosce. Ma non si può dire a uno sì e al secondo no perché ho raggiunto la quota. Quindi l'Austria in realtà si è messa in questo cul-de-sac da sola, facendo una serie di interventi normativi anche interni che evidentemente gli giovavano dal punto di vista politico. Quanto gli siano giovato poi abbiamo visto. In realtà noi è vero che siamo in ritardo su molte cose, però Oscar, l'assicuro che in realtà una strutturazione del sistema nazionale di accoglienza dal 2014 con l'intesa Stato-Regione. No, passi avanti di affatto. Passi avanti di affatto. No, per carità. Quindi voglio dire, purtroppo siamo di fronte a 150-170.000 sbarchi all'anno che non rendono agevole il decollo di una cosa che è appena nata. Quindi il rischio vero è questo qui. Sono anche i numeri. Allora, sottosegretario, noi la ringraziamo. Ci dobbiamo fermare qualche minuto e poi avremo Matteo Brambilla, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Napoli. Comunque vedi che i nostri ascoltatori, moltissimi messaggi che arrivano, inneggiano tutti, muri chiusi, fanno bene. No, ma certo, l'Austria ha ragione, andrò in vacanza in Austria, viva l'Austria. Speriamo che i britannici escano. Cupio di Solvi si chiama. Va bene, Cupio di Solvi, noi andiamo alla pubblicità. Sono le 8:42 minuti, eccoci caro Oscar, siamo qui. Allora, dovremmo conoscere a questo punto una persona che fino a questo momento non ha parlato pubblicamente, è la prima volta che forse anche perché sai, poi l'informazione non li chiama un po'. No, ma è chiaro, si tratta di Matteo Brambilla, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Napoli. Brambilla, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Vogliamo subito toglierci tutta la questione dell'ironia, del fatto di avere un Matteo Brambilla nato tra l'altro che da Monza, non a Napoli, ma candidato sindaco a Napoli. Lei, qualcuno glielo dice per strada, ma come Brambilla? Ma c'è chi l'accusa addirittura di fingere di avere un appuntamento e una pronuncia napoletana. Non ho la pronuncia napoletana, come potete sentire. Io sono nato a Monza e mi sono trasferito 10 anni fa. Ho chiesto io il trasferimento alla mia azienda perché mi sono sposato con una napoletana e perché amo questa città e l'ho sentita mia dal 1992, da quando per la prima volta sono venuto a Napoli. No, adesso per un campo, siamo quindi precisi, diciamo che lei ama sua moglie, perché se sua moglie la sente dire in radio che ama tutte le napoletane è finita. No, lei ama sua moglie. Io amo mia moglie e amo Napoli, la città. E quindi queste due cose vanno e sono sempre andate parallelamente. Ma qualcuno glielo rinfaccia, glielo fa come battuta o no nella campagna elettorale? Il fatto no, ma anche quando sul lavoro a Napoli, cioè, è chiaro che si sente che non ho l'accento napoletano, ma poi quando mi conoscono capiscono che appartengo a questa città perché ci abito e perché ho scelto di viverci. Quando uno sceglie di vivere in una città, è detto tutto. Senta, Brambilla, allora, la questione che è un po' più ampia, non riguarda Napoli, ma insomma è su tutti i giornali, e riguarda la vicenda del presidente del PD campano, Graziano, no? Che voglio dire, lei ha un'idea di questo, perché poi intercetta la questione possibile di collusione tra politica e camorra in una terra difficile. Guardi, la vicenda è molto grave. Se fossero confermati, se venissero confermati i reati, che sono concorsi esterni, un'associazione mafiosa, turbativa d'aste, falso ideologico, corruzione, stiamo parlando di reati molto gravi, sarebbe l'ennesimo, purtroppo ennesimo, episodio di corruzione, soprattutto in questa regione. Ci sono due aspetti che vanno considerati. Il primo è quello che ormai vengono arrestati o indagati quotidianamente qualche politico. E questo dà la percezione alle persone che diventi quasi un'abitudine. Questo è gravissimo, perché segna ancora di più il distacco fra le persone che devono andare a votare e chi li deve rappresentare. L'altra cosa fondamentale è che questo rinvio a giudizio, perché è stato arrestato l'ex sindaco di Santa Maria Capavetri e 9 funzionari del comune, per quello che riguarda l'ex presidente del PD campano, perché si è dimesso, si è autosospeso dalla carica, ma non si è dimesso da consigliere regionale, qui si parla di un'indagine con le intercettazioni che il governo vuole limitare, e anche questo è un fatto molto grave. Per quello che riguarda, ma dovrebbe dimettersi secondo lei anche da consigliere regionale, cioè alla luce di accuse per il momento? Dovrebbe dimettersi nel momento in cui c'è un primo grado di giudizio. Ovviamente fino al grado di giudizio una persona innocente è indagato e si dovrà vedere se le prove a suo carico sono poi effettive, per cui massima trasparenza, massimo rispetto per il lavoro della giustizia. Quello che è grave è che è un sistema, è un intreccio tra politica e camorra che continua nel tempo. Qui si parla di appoggi nelle intercettazioni, di appoggi elettorali per queste persone che hanno avuto e hanno dato un contributo fondamentale per l'elezione del presidente della regione. Parla di 15.000 preferenze. Questa infatti è l'accusa molto grave. Ma per me nell'idea che si è fatta vivendo a Napoli questi 10 anni è che nei rapporti con la camorra, con la malavita, nell'atteggiamento, diciamo così, chiamiamolo disinvolto, dovremmo usare aggettivi molto più pesanti, con la legalità, c'è una distinzione ancora che resta tra la vecchia sinistra e la vecchia destra tradizionale dei partiti, o è un sistema omologato, cioè occhi che ha le stesse colpe? Ma non è un sistema omologato, il problema è di persone. Quando le persone pensano di fare soldi facili, di fare carriere politiche e svendono la propria dignità, la propria onestà a questo, non c'è distinzione politica. Io da quello che vedo, politici locali, dalla municipalità fino al comune, fino alla regione e alla provincia. No, perché glielo chiedo perché il PD è andato avanti per anni dicendo noi siamo l'unica alternativa vera al sistema cosentino di Forza Italia, ai rapporti di connivenza con la camorra. Poi uno vede queste vicende, sono tali e quali a quelle di cui il PD per anni ha accusato la destra. Sono tali e quali, cioè la risposta se l'è data da sola. No. Anche non vivendo a Napoli sono tali e quali, cioè ormai è tutto l'arco costituzionale che viene coinvolto, purtroppo. E i cittadini alla fine il 72% va a votare, questa però, è la realtà. Brambilla, da possibile sindaco, per esempio, lei gradirebbe l'esercito a Napoli? Sa che si dice una delle soluzioni è anche un po' di una maggiore presenza contro ovviamente la criminalità organizzata, sto parlando. A me ha colpito che i parroci anticamorra, che forse sono una delle presenze più attive nei quartieri spagnoli e così via rispetto allo Stato, dicono ma che lo Stato è un'altra cosa, quello che esercito manca qua. Esercito sì o no? Allora, innanzitutto i parroci anticamorra è una brutta dicitura, sono parroci che nel quartiere cercano di fare iniziative a rispetto delle regole del vivere civile. Per quello che riguarda la presenza dell'esercito e la presenza delle forze dell'ordine sono da distinguere. In questi ultimi settimane c'è una recrudescenza dei fatti gravissimi di criminalità, non è microcriminalità, qua è gente che spara in strada e ammazza le persone. Anche oggi è stato ucciso un altro a Miano, che è un quartiere della 7ª municipalità vicino a dove abito, un 46enne pregiudicato. Qui bisogna distinguere due aspetti: il primo, quello della presenza sul territorio delle forze dell'ordine, che si devono interfacciare con i vigili urbani. Quindi ci deve essere un lavoro di intelligence sul territorio, perché qui bisogna dare una risposta forte e avere le stesse armi della camorra per quello che riguarda la criminalità, quella forte. Per quello che riguarda la legalità, è quello che chiedono i parroci, è liberare l'energia del quartiere. Cosa significa liberare l'energia del quartiere? Nei quartieri, lei faceva riferimento ai quartieri spagnoli, in realtà poi si parla anche di Rione del quartiere, sì, Sanità, Porcella, Fontanelle, che tra l'altro sono i primi quartieri che ho conosciuto a Napoli. Io, il mio primo approccio è stato con Via dei Tribunali, e sarebbe il centro proprio storico, sì, cioè, antico, certo, di Napoli, dove c'erano delle faide. La parte calda. La parte calda. E quindi lì loro cosa chiedono? Chiedono degli spazi di socialità, sostanzialmente, che non ci sono in questo momento. Si parla di apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, si parla di utilizzo di spazi comunali per attività sociali, di costruire un percorso alternativo ai giovani del quartiere. Ecco, tutto questo chiedono, quindi ci vuole una presenza sicura con un lavoro di intelligence coordinato delle forze dell'ordine. Sì, ma non è quella non è quella l'unica soluzione, ne dice, insomma. Cioè. No, beh, certo, ci vuole anche. Ci vuole, ma non è. Ma non è esattamente. Non è il toccasana. E poi bisogna che le imprese, le medie e piccole imprese a Napoli, abbiano la certezza di essere tutelate. Quando si parla anche di corruzione, si parla di illegalità, si parla di racket, eccetera, e devono poter continuare a investire in modo sano, sì, nella nostra città, perché altrimenti, se non si crea un'alternativa economica e imprenditoriale, è chiaro che la camorra attecchisce. Quando non c'è niente, il nulla intorno, quando non c'è una biblioteca, un cinema, un teatro, una scuola che funzioni, una palestra nel quartiere, un campo, sì, da calcio nel quartiere, non ci sono spazi, è ovvio che aperti, non puoi, è hanno ovvio campo che fertile. Senta, veniamo a un altro tema. Lei è un ingegnere energetico, quindi si occupa molto di ambiente. Le chiedo seccamente, sì, il governo mette un pacco, bei soldi, insomma, finalmente, per la riconversione di Bagnoli, avvia un progetto, una cabina di regia comune. Il sindaco De Magistris dice: neanche per idea, questa è un'occupazione, è illecito anche lo strumento con cui il governo fa questo. No, no e no. Se lei viene eletto sindaco, si siede in quella cabina di regia, coopera, chiede cambiamenti, magari quali, oppure continua a dire no, no e no, e muro di gomma al progetto che va avanti nel governo? La ringrazio per questa domanda che permette di rispondere in questo modo. Ci sono due aspetti da considerare. Il primo è sui ruoli istituzionali. Il governo deve fare la bonifica, il sindaco deve pianificare la pianificazione urbanistica del proprio territorio. Ricordo che quei terreni sono di proprietà del Comune di Napoli, i terreni di Bagnoli dei quali si sta parlando. Quindi la bonifica deve essere in carico allo Stato, che aveva già stanziato 110 milioni di euro, sono andati persi, e c'è un'inchiesta della Corte dei Conti e c'è un'inchiesta della magistratura per disastro ambientale. Quindi questa è la responsabilità dello Stato. Quello che è successo è che il sindaco è stato esautorato. Lo so, però c'erano, lo sa meglio di me, è dal 72 che va avanti il comune che dice che cambierà, esatto, la programmazione, cui, non va avanti. Infatti, per cui ci sono delle responsabilità da parte dell'attuale sindaco. La cabina di regia, sostanzialmente, con lo Sblocca Italia, ha dato potere al soggetto attuatore di sostituirsi al sindaco la progettazione urbanistica del territorio. Quindi la rifiuterebbe se fosse io, sindaco lei? Io da sindaco andrei alla cabina di regia come ruolo istituzionale e direi che non, ovviamente, essendo esautorato dai poteri, non riconosco, ovviamente. Però quindi andrebbe lì per dire non vi riconosco, però di fatto. Però il problema è a monte, non è a valle, il problema è pregresso, cioè qui c'è qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare, da sindaco e da Stato. Quindi, però è una bella gara, voglio dire, perché è una bella gara. Ecco, vabbè, ha le chiare responsabilità. Il problema è che a quel punto però anche l'amministrazione guidata da lei si metterebbe in condizione di assistere solo a quello che il governo fa. Perché a meno che non vinca con un'impugnativa giudiziaria, ecco, sì, però. Esatto, ma lei sa benissimo che nella cabina di regia il sindaco non ha potere decisionale, ha solo potere di dare il proprio parere, come nelle conferenze dei servizi. Alla fine le conferenze dei servizi c'è qualcuno che ha già deciso e la conferenza di servizi serve a confermare questo parere e a dare dei pareri contrari con prescrizioni tecniche per andare avanti nel progetto, ma quando si arriva a quel punto le cose sono già state decise, per cui quello che si può fare è informare i cittadini, tenga presente poiché il sindaco ha la tutela della salute dei cittadini, per cui se dovesse essere acclarato un disastro ambientale dovrebbe costituirsi parte civile. Allora Brambilla, per concludere, ci vuole chiarire la questione all'interno del Movimento 5 Stelle? Per esempio, gliela dico seccamente, lei risponde in qualche modo a Casaleggio Junior in questo caso, cioè lo incontra, lo deve incontrare, perché ci sono state polemiche perché la sindaca di la candidata sindaca di Roma Raggi è andata da Casaleggio. Lei lo conosce, lo sente? Guardi, io non dipendo da nessuno, dipendo dalle persone attiviste residenti a Napoli che mi hanno votato come portavoce. Casaleggio Junior in questo momento ha un ruolo, lo sapete tutti, di gestire l'associazione Rousseau e la piattaforma, e quello è il suo ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle. I due garanti del Movimento 5 Stelle erano Beppe Grillo e Casaleggio. Venuto a mancare Casaleggio, ci sarà un ruolo del figlio anche come garante del Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle non ha una struttura. No, è chiaro, partita. Ma quindi lei non l'ha sentito, non ha in programma. Io purtroppo l'unica volta che l'ho visto è al funerale del padre, al quale ho partecipato, per cui non ho avuto ancora la possibilità di incontrarlo. Non so se ci sarà nel futuro, ma sarà normale, come ho incontrato Luigi Di Maio, che tra l'altro incontrai anche come semplice attivista di delle associazioni per fare delle interrogazioni parlamentari su Chiaiano, per esempio. Va bene. Il mio territorio. Va bene. Buona campagna elettorale. Buona campagna elettorale, Matteo Brambilla, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Napoli. I nostri ascoltatori invito a leggere articolo dal titolo "Come il Fido Lotti riempie i vuoti lasciati da Gava e Cosentino" sul Fatto Quotidiano. Il titolo che è tutto un programma. Esatto. Ci troviamo domani, ragazzi. Ciao.